Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Buonasera da Blu Radio Veneto, oggi è mercoledì 21 novembre 2012, buonasera da Agostino Spolaore, ma soprattutto buonasera come di consueto dal mio fedele compagno, siamo sempre insieme. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa è una serata lunghissima, la consueta maratona del mercoledì sera all'insegna della musica. Avremo dalle 22 alle 24 un gruppo che fa musica reggae, ma ne parleremo quando a debito momento, cioè dalle 22 in poi. Prima però invece cominciamo alle 21, appunto alle 21 e 3 in questo preciso istante, con una band che si chiama The Mojomatics. Sono composti da Matteo Bordini e Davide Zolli, e ne parliamo tra qualche istante. Prima i nostri dati, quello il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza, e poi siamo in stream. Ovviamente collegandovi nel nostro sito potete ascoltarci tranquillamente in diretta 24 ore su 24, basta semplicemente cliccare dove c'è scritto ascolta la radio e sentirete sempre la nostra emittente in diretta. Il nostro sito è www.bluradioveneto.it. Credo di aver detto tutto, e a questo punto lasciamo lo spazio e la parola a The Mojomatics, nella persona, telefonicamente parlando ovviamente, di Davide Zolli. Ciao Davide! Ciao, ciao a tutti. Ciao Davide, buonasera Davide. Dunque, ciao. Quando uno si immagina la musica dei Kings, dei Rolling Stones, ah che bello, e difatti ci immergiamo nella musica dei Kings, dei Rolling Stones, riveduta e corretta dai Mojomatics. Non è così, Davide? Sì, è una grossa influenza della musica che facciamo un po', in generale la musica degli una anni bella 70. Grossa influenza, possiamo dire questo, una bella grossa influenza, perché You're the Reason for My Troubles, che è il vostro ultimo disco, è un grande bel disco secondo me. Ti ringrazio. Io che ho sempre amato l'influenza che tu hai citato, cioè i Kings e i Rolling Stones, mi sono piaciuti subito le vostre armonie, nate da una serie di relazioni. Voi parlate di relazioni sia personali che universali. La ragione, il motivo è quello, nasce da quello. Ma diciamo che un po' il tema così dell'ultimo disco. Beh, in realtà un po' tutte le canzoni che abbiamo sempre scritto hanno un po', sono sempre, parlano un po' di storie d'amore andate male, un po' di questo tema un po' dell'amore, della incomunicabilità qualche volta tra persone, ma la musica sì, però dimmi è un po' comunque, diciamo, in generale il tema del, in realtà al di là del 60s, dei Kings, dei Rolling Stones, come dicevi te, c'è molto anche blues nella musica che facciamo, quindi è un po' un richiamo al blues anche questo. Beh, i Kings e i Rolling Stones assolutamente partono dal blues, e quindi sono perfettamente d'accordo con te. Un disco che avete impiegato 2 anni circa per farlo, perché l'avete costruito in modo certosino, cercando di trovare momento dopo momento, cercando di incidere momento dopo momento nel miglior modo possibile, non è così Davide? Abbiamo, diciamo, i dischi precedenti, questo è il quarto disco. Questo è il quarto disco, quindi avete già una discografia corposa, possiamo dire, nonostante siete molto giovani ancora, ma avete una discografia corposa, interessante. Sì, diciamo che gli altri dischi li abbiamo sempre registrati più o meno ogni anno, più o meno facciamo un disco all'anno, mentre questo ultimo disco qua l'abbiamo preso un po' più con calma e ci siamo un po' più concentrati nel scrivere i pezzi, più concentrarsi sul songwriting, quindi abbiamo scartato tante cose, abbiamo cercato di tenere soltanto i pezzi che secondo me erano migliori e ci siamo presi un po' più con calma, insomma. Avete fatto una selezione? Esatto, abbiamo fatto una selezione, abbiamo nel frattempo comunque continuavamo a suonare dal vivo, a fare concerti, quindi provavamo un po' i pezzi nuovi per vedere se funzionavano meno, e abbiamo fatto una cosa un po' meno d'impatto, mentre gli altri dischi venivano un po' così, li facevamo subito di botta, questo qui abbiamo un po' più ragionato pensato. Questo qua praticamente, sì, esattamente. Sì, sì. E lo avete inciso, mi pare, per un'etichetta vostra, assolutamente vostra. Sì, abbiamo... Quindi è una cosa molto positiva. assolutamente. Abbiamo deciso di farlo uscire, di fare un'etichetta dopo insomma di vari anni di esperienze con etichette un po' ovunque. Abbiamo pensato di farlo uscire noi, di un po' autoprodurci in tutto, anche appunto nel far uscire il disco e farci le cose un po' da soli. È un sound vintage nel senso positivo del termine. Avete utilizzato anche delle macchine, antiche macchine fotografiche, per fare la fotografia della copertina. Sì, noi abbiamo anche uno studio di registrazione che è 100% analogico. Mm-hmm. Bellissimo e questo. Quindi, oltre a, appunto, a aver registrato il disco completamente in analogico, abbiamo fatto anche la foto di copertina con una macchina analogica. Un po' sfocata, sì. Volutamente sfocata, come si usava una volta. È venuta così. No. Apriamo la finestra del disco e presentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto noi della redazione, io ed Agostino. Si chiama Behind the Trees, un pezzo assolutamente rolling stoniano, bellissimo, dà proprio la carica. Adesso lo sentiamo, poi ne parliamo, Davide, ok? Ok. Una bella scarica di adrenalina, Davide, cosa dici? Abbiamo deciso di mettere come primo pezzo del disco, appunto. Bello, perché... bello, avvincente, emozionante, attira, si fa muovere, è una bella cosa, secondo me. Avete scelto... È un buon omaggio ai Rolling Stones, come dicevi tu prima. Esattamente, i Rolling Stones, sì, però i Rolling Stones sì, riveduti e corretti dai Mojo Matics, cioè vi siete ispirati... Però poi la musica è atto assolutamente vostra, il modo di suonare è assolutamente vostro. I Rolling Stones sono un punto di riferimento, sì, ma questo vuol dire assolutamente niente. Poi la vostra strada l'avete portata avanti voi, assolutamente. Bello, bel pezzo, molto interessante. Come l'avete, è stato scritto da te e da dunque da Marco, Matteo, scusa, come si chiama? Da Matteo, ma in realtà Matt, che è appunto il cantante chitarrista, lui scrive i pezzi, di solito le linee di chitarra, così le scrive lui e poi le proviamo un po' insieme, quindi dopo viene riarrangiato. Mi pare, però, l'hai provato prima questo pezzo dal vivo, come tutti gli altri del disco, oppure no? Sì, l'avevamo già provato prima di registrarlo, l'abbiamo suonato un po' prima che uscisse in qualche concerto. E la sensazione degli ascoltatori, di chi vi ha sentito e vi ha visto, cosa, siete stati soddisfatti quando avete fatto sentire un disco? Sì, abbiamo visto subito che funzionava, che comunque è una canzone molto catchy, che insomma funziona, che ha un buon tiro, e quindi ci è piaciuta. Tuttora, insomma, dal vivo è uno dei primi pezzi che facciamo per un po' dare la carica dell'inizio concerto. Sì, assolutamente un ottimo pezzo che ha un tiro interessante. Parlavate del discorso del live. Voi amate particolarmente suonare dal vivo? È così, ma sì, in realtà, insomma, noi ormai sono quasi 10 anni che suoniamo, quindi avete il palco proprio. Sì, no, ma a volte sentiamo anche un po' la stanchezza di fare tanti tour e tanti concerti, però sì, sicuramente è un momento molto importante del gruppo. Ma siete stati spesso volentieri anche all'estero voi? Suoniamo molto anche all'estero, sì, abbiamo... Il pubblico, non so, in Germania, faccio l'ipotesi, o no? Sì, un po', soprattutto in Europa, sì, del nord, Germania, Scandinavia, tanto, anche in Francia, un po' ovunque in realtà. Dove capita? Abbiamo girato tanto la Germania, perché i primi due dischi sono usciti per un'etichetta tedesca, quindi è stato subito abbiamo girato tanto la Germania, sì. Bene, questa è stata un'esperienza assolutamente positiva, presumo. Sì, assolutamente. E perché l'idea di incidere in modo vintage l'album? Come mai questa idea? Ma noi, Davide? Perché innanzitutto, come avrete capito, insomma, le nostre influenze sono di musica degli anni 60. Sì, certo, certo. E quindi il modo migliore per rendere quel tipo di suono è usare le strumentazioni vecchie. E da subito, infatti, Matt, che ha uno studio di registrazione analogico, ha imparato a fare utilizzare questo lavoro quando abbiamo iniziato con Mojomatis per registrare le nostre cose, perché da subito, insomma, avevamo un'autotraccia bobina, e da lì ci siamo registrati i nostri dischi, e da lì, insomma, imparato. Quindi l'idea era già partita inizialmente, poi si è sviluppata fino ad arrivare a questo. Sì, è venuto in realtà naturale, nel senso che il tipo di sound che piace a noi, la roba che ascoltiamo, è roba che è registrata in analogico, in bobina. Beh, e volevamo anche noi avere quel tipo di sound là, e viene assolutamente meglio così piuttosto che in digitale, insomma. Sì, questo disco si ascolta benissimo, senza nessun problema, un bel sound proprio accattivante al 100%, quindi registrato come si deve, registrato da parte vostra nel vostro studio di registrazione. Si sente l'amore, la forza, la capacità di fare una cosa vostra che traspare dalle note del disco, secondo me. È andato di pari passo con la band, questa cosa qua, insomma, questa passione per questi tipi di suoni e di produzione, insomma, quindi sì. Adesso ruotiamo, ci avviciniamo al folk rock americano. Meanwhile, abbiamo scelto la traccia numero 3. Ne vuoi parlare un momento, la costruzione, com'è nata questa traccia? Questo pezzo qui in realtà l'abbiamo riregistrato nel disco ed era già uscito in un singolo nel 2010 per un'etichetta che si chiama Yes, un'etichetta italiana, è un pezzo che avevamo registrato per questo singolo abbastanza in velocità, anche è molto più lo-fi la versione originale del singolo. Però è una canzone che, insomma, ci piace molto perché è molto semplice, sono due accordi praticamente, ed è molto anche questa basata sul songwriting, sulla melodia, e ci piaceva particolarmente, l'abbiamo voluta riregistrare meglio nel disco, e è un pezzo a cui siamo molto affezionati, insomma. Anche noi, sì. Visto che abbiamo scelta come, come scaletta. mi fa molto piacere. Adesso lo sentiamo allora. Davide, una chitarra, un finale di chitarra acida, mi pare. Cosa dici? Cosa, scusa? Un finale di chitarra lisergica, acida. Sì, abbiamo registrato una solo al contrario. Bello, bello, alla Beatles. Wow. Sì, esatto, sì. Tu hai parlato, hai accennato i dischi precedenti. Poi, cioè, erano 3 album in studio, 2 live e 8 singoli sparsi, quindi non avete fatto poco. No, come dicevo prima, soprattutto nei primi come anni... mai 8 singoli sparsi, Davide? Un po' di singoli li abbiamo fatti all'inizio, prima di fare l'album abbiamo fatto 2 singoli e dopo in realtà in queste pause di tempo tra il penultimo disco e l'ultimo avevamo fatto uscire 4 singoli in contemporanea, più o meno in contemporanea, per etichette diverse, per un'etichetta danese, un'etichetta americana, un'etichetta italiana, e quindi comunque sì, non avevamo fatto un album, però 4 singoli è un po' come bella, una bella cosa questo proliferare di etichette straniere, vuol dire che, sì, che la musica volevamo un po' sondare vari territori, insomma, con la scusa anche abbiamo sempre fatto tanti tour, era un po' una scusa per ogni tour fare un singolo, presentarlo in vari posti, insomma. E i 2 live, Davide? Come mai? Cosa? I 2 live, avete fatto anche 2 live? Sì, i 2 live li abbiamo fatti per dei tour, per portare qualcosa di speciale, particolare ai concerti. C'è stato un periodo in cui giravamo, ci portavamo il registratore ai concerti. E il ragazzo che ci faceva da fuori poi registrava, abbiamo un po' selezionato un po' di Dove? In che città? D'Italia o fuori? In Italia, nel caso di stati in Italia. Un bel biglietto da visita, Davide, cosa dici? Soprattutto all'estero, no? Ma sì, ci piaceva comunque anche l'idea, siccome in realtà dal vivo e in disco è abbastanza diversa la questione, perché dal vivo è molto più molto minimale. Energia dal vivo date. Esatto, esatto. Mentre nei dischi, come avrete sentito, comunque sovraincidiamo cose, abbiamo insomma un po' una pienezza alle canzoni. Volevamo avere anche dei dischi che rispecchiassero appunto i concerti, che sono un po' più appunto punk, energici e niente. Così erano delle cose che abbiamo fatto per i tour, delle cose limitate da vendere ai concerti per fare qualcosa un po' di speciale. Davide, oltre a te e a Matteo, chi ha partecipato effettivamente, chi vi ha dato una mano per l'incisione del disco? Ma in realtà questo ultimo abbiamo fatto tutto in due, tutto in due. In lo studio in realtà di registrazione ci lavora anche Emanuele Baratto, che suona nei Movistar Junkies, che suona un altro gruppo italiano, però nel periodo in cui noi registravamo lui era via in tour, e quindi abbiamo fatto veramente tutto noi da soli, anche con dei momenti un po' di difficoltà, nel senso che dovevamo premere rec play e andare nella sala di là a suonare. Però sì, abbiamo fatto tutto in due. Bene, bene, avete fatto un bel lavoro, un lavoro di un certo peso. E tu, cioè, l'album è stato scritto in circa 2 anni, ma contiene tutte le cose che avevate deciso di incidere, oppure ci sono altre cose messe nel cassetto pronte per una prossima incisione? Ci sono alcune cose che abbiamo scartato. Perché non erano ottimali alla funzione del disco, oppure perché non ci stavano in scaletta? No, non erano ottimali per il disco, non andavano in scaletta, non eravamo troppo contenti, quindi le abbiamo lasciate un po' là e non so se verranno tirate fuori o meno, comunque sì. Non le fate queste dal vivo, quelle cose scartate chiaramente? Cosa? Non le fate, non le eseguite dal vivo le cose che avete lasciato perdere? No, le abbiamo proprio lasciate perdere in tutti gli aspetti, non andava, e quindi non l'abbiamo più neanche suonata, insomma. Una cosa positiva nel disco, nel retro di copertina, c'è facciata A e facciata B, come si usava nel vinile di una volta. È vero, vero, vero, Davide? Sì, perché in realtà il disco dopo è stato stampato anche in CD, però l'idea iniziale era di farlo uscire soltanto in LP, e quindi è stato pensato appunto quei due lati. E abbiamo voluto scriverlo dopo anche nel CD per riportare questa cosa, insomma. Bello, bello, molto positivo. Quindi è uscito anche in vinile il disco, praticamente. Il disco, sì, è uscito la prima edizione, è praticamente solo in LP col CD in omaggio dentro. Quindi comunque una chicca per i collezionisti, possiamo dire. Sì, un po' sì, un po' volevamo insistere sulla questione del vinile, insomma, per dare più importanza al vinile. Poi abbiamo fatto anche CD in realtà, perché comunque sono ancora richiesti, si vendono ancora. Certo. Però è nato, e comunque volevamo insomma dare più importanza al formato in vinile. Il suono del vinile, che cosa ha di più del suono del CD, Davide? Cosa si sente? È un'anima diversa, non è così? Sì, ha un colore, il suono un po' più colorato, ha un colore più caldo, più morbido, più vicino all'idea della band, alle vostre idee. Il suono più freddo, più tecnologico del CD, perde l'autenticità, il cosiddetto feeling. Sì, esatto, esattamente, esatto. Ok, adesso abbiamo scelto un pezzo che i critici hanno avvicinato ai Violent Femmes. Non so se sei d'accordo. Il pezzo è Don't Talk To Me. Sei d'accordo nell'avvicinamento ai Violent Femmes? Voi siete anche duri quando volete. Il punk è abbastanza energico. Sì. Ma non è propriamente così, secondo me. No, non è proprio vicino ai Violent Femmes. Non so se... Non ci avevo pensato. Dopo ne sentivi un po' di tutti i colori quando ti... Beh, sono tutte state positive le recensioni nel caso Davide, assolutamente. Sì. No, in realtà alcune persone hanno un po'... fatto, come dire, il fatto che queste nostre influenze così marcate hanno dato un po' del derivativo al disco, insomma, come se fosse un po' una copia di robe vecchie. Di qualche roba vecchia, invece non è così. Il derivativo, cioè l'idea, sì, partono da quel substrato musicale degli anni 60, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Poi la strada sono i Mojo Matrix che la portano avanti, assolutamente, secondo me. Quindi il disco è valido in tutti i sensi. Sentiamo allora Don't Talk to Me, sempre dai Mojo Matrix. Can't you see that I'm going down, down below the ground of this land, babe? But can't you see that I'm dry as a bone, a thousand stones keep speeding? Qua Matteo e Davide, adesso parliamo con Davide, Davide Zoli dei Mojo Matrix, giocate in senso positivo del termine con la melodia, è un pezzo melodico, tra virgolette questo. Sì, l'abbiamo sempre definito questo qua il pezzo power pop. Esattamente, così. Power pop al 100%. Cioè giocate non in senso cattivo, nel senso bello, accogliente, invitante nella melodia. La melodia c'è sempre, anche se un po' arrabbiata qualche volta, un po' dura, un po' nascosta. Qua non è nascosta, è proprio provvidente, si sente assolutamente. È trascinante la melodia in questo pezzo. Sì, sì, è un pezzo appunto un po' più pop rispetto al resto del disco. Abbiamo però parlato, sì. Dimmi Davide. No, dicevo comunque, come dicevo prima, è un po' tutto, soprattutto quest'ultimo qua, è molto... Avete leggermente rallentato, perché abbiamo parlato dei 2 anni però dal disco precedente sono passati 4 anni, non 2 anni. Sì. Come mai questo, 2 anni sì per fare questo disco nuovo, ma perché questi altri 2 anni per attendere di avere l'idea, o perché l'idea era di cominciare dopo un certo periodo di tempo? Ma in realtà abbiamo anche fatto altro in questi anni che sono passati, siamo un po' concentrati su un altro progetto musicale che abbiamo, che si chiama Squadra Omega. Ho capito. Che è un gruppo un po' che parla un po' più sperimentale, un po' più sul crowd, così. E avendo fatto tanti tour e tante date, eravamo un po' stanchi dovevamo un po' di fermarvi un pochettino. Esatto, sì. rinfrescarci un po' l'idea. Allora abbiamo deciso di prenderla con calma e nel frattempo sono passati 4 anni, però come dicevo prima abbiamo fatto uscire questi 4 anni, sono usciti questi 4 singoli. Sì, esattamente, comunque... quindi non siete stati assolutamente fermi. Avete però, no, come avete, come tu hai detto, c'era questo progetto che vi ha preso, cioè un progetto più sperimentale, leggermente diverso dal progetto, sì, di Mojomatic, come in questo disco che stiamo ascoltando, disco molto piacevole, molto invitante. Non so se i fans della prima ora hanno trovato un po' di cambiamenti, sicuramente il sound è meno esplosivo rispetto a una volta, però ci sono le variazioni, c'è l'evoluzione, c'è l'impensamento in senso positivo del termine. Bisogna sempre andare avanti, chiaramente, non ci si può fermare. Sì, in realtà soprattutto ai concerti la gente vuole un po' le cose più... Quelle dure, quelle di una volta, quelle potenti, sì, insomma. Sì, e noi abbiamo varie volte cercato di proporre cose un po' più, diciamo, folk o tranquille dal vivo, che però effettivamente funzionano un po' meno. Avete sentito, avete proprio tastato con mano il discorso che funziona un po' meno, perché voi, sì, perché la gente era abituata alla vostra energia, chiaramente. Sì, esatto. Ma è una cosa, secondo me, però, sperimentare anche in questo senso è una cosa positiva. Cercare, sì, assolutamente, anche viene naturale, perché sennò fai tutto il disco buoni, insomma. Esattamente. E a proposito di, abbiamo parlato del live, di concerti, le vostre date prossime? Allora, le prossime date suoneremo il 6 di dicembre a Lonato, in provincia di Brescia, alla locanda di campagna, e l'8 suoniamo al Tamburin di Seregno, poi il 15 a Verona, l'Enel, e dopo a febbraio abbiamo una data al Lio Bar a Brescia. Queste sono quelle che mi ricordo per ora. E comunque, insomma, tutte le date sono sul nostro sito. Citiamo il vostro sito, Davide. Il nostro sito è mojomatics.blogspot.com, oppure la pagina di Facebook, Mojomatics su Facebook, e lì ci sono tutte le date, gli aggiornamenti sul tour e tutto quanto. Benissimo. E se uno vuole fisicamente, visto che abbiamo parlato di vinile, di CD, il vostro disco, come può fare? Allora, il disco in Italia è distribuito dalla Goodfellas, quindi... Quindi è una grossa distribuzione. Sì, è una distribuzione che tratta tanto vinile anche. Certo. Quindi insomma un po' nei negozi di dischi che vendono vinile il disco si dovrebbe trovare, o altrimenti nel sito dell'etichetta che si chiama Outside Inside Records c'è lo shop online dove si può ordinare e comprare sia il CD che l'LP. Bello, una cosa, visto che il vinile sta ritornando in voga. È una cosa molto, io ho visto proprio recentemente, è uscito da qualche giorno, il cofanetto di tutti i dischi dei Beatles ristampato. Sì, l'ho visto l'altro giorno. Visto anche te. È stata una grossa tentazione. Funziona molto di più di una volta, per fortuna. Vedo che tanta gente anche già ha ripreso al giradischi. Ah, certo, tutti i dischi nuovi sono usciti anche in vinile. Chiaramente il discorso del collezionismo, ma non è propriamente un collezionismo. È bello un ritorno positivo. Il vinile non è mai morto, era un po' nascosto, poi finalmente è ritornato su. E visto che voi giustamente avete fatto una bella operazione, CD prima il vinile e poi il CD, cioè, d'accordo che voi utilizzate certe tecniche che si utilizzavano negli anni 60, però è già una cosa coraggiosa, secondo me. Cosa dici, Davide? Ah, guarda, un po' diciamo la scena musicale che abbiamo sempre bazzicato in questi anni, quindi insomma la scena garage, rock and roll, il vinile è sempre stato un punto di riferimento, nel senso che abbiamo sempre fatto uscite in vinile e un po' il pubblico che ci segue l'ha sempre comprato, insomma, quindi non è, insomma, abbiamo sempre avuto, insomma, un pubblico abituato, gente che comunque compra vinile. Ah, certo, quindi non è una cosa... Però noto in Italia, dove invece giriamo un po' di più sulla scena un po', diciamo, più indie, un po' generica, abbiamo notato che negli ultimi anni effettivamente è tornato molto di più in voga il vinile e molta più gente lo compra. Certo, c'è una cosa positiva che vediamo noi, insomma. Beh, adesso facciamo sentire un pezzo che è una ballata yanghiana e poi ci saluteremo. Una ballata yanghiana che è molto bella, secondo Long and the Long Sound Day. Come mai una ballata yanghiana, Davide? È un'altra grossa influenza nostra, i songwriter, Neil Young è uno è un vostro punto di riferimento nonostante tutto. È una grossa passione. Quello elettrico o quello acustico, Davide? Tutto. Tutto. Sì, col disco nuovo decisamente ha fatto un coso incredibile col disco nuovo che è ucciso. Che il è disco nuovo è stata la cosa migliore, che una grande gioia per noi sentire. Ha fatto una roba incredibile. Ha sempre fatto delle robe incredibili. Lui non ha discorso di mercato, lui fa quello che si sente e basta. Sì, ma riflettevamo proprio sul fatto che una persona della sua età riesce a fare dischi migliori comunque tuttora di esattamente più giovani. Ok, sentiamo questo pezzo splendido dei Majomatic. Davide? Sì. Ciao, ci sei? Sei ancora? Perfetto. Bello, questo pezzo era molto bello e ero incerto per scegliere questo per poi per far lanciare il disco o il pezzo, quello che verrà dopo, che con cui concluderemo l'album, che si chiama The Ghost Story, un omaggio ai Fab Four, assolutamente, non so se sei d'accordo. Sì. Bene, riepiloghiamo un momento. Allora, dove ci posso trovare il disco? You Have a Reason for My Trouble, Davide? L'indirizzo del sito dell'etichetta che è www.outsideinsiderecords.com. Bene. Dimmi. O nei negozi. O ai nostri concerti. O i vostri concerti. Ridici le date un secondo. Le date, allora, il 6 dicembre all'Onato, la locanda di campagna, l'8 dicembre al Tamburin di Sedegno e il 15 dicembre all'Enel di Verona e il 1 febbraio al Lio Bar a Brescia. Benissimo, grazie Mojomatics. Stasera in onda al telefono Davide Zolli, salutiamo anche Matteo, quando sicuramente lo vedrai, Matteo Brudì. Ve lo saluto. Per noi, disco consigliabilissimo, You're the Reason for My Troubles, i Mojomatics, e terminiamo questa carrellata, The Ghost Story. Ciao, buonasera Mojomatics. Ciao, buon proseguimento. Grazie ciao. A te, ciao. Ciao, ciao. Blue Time Live. Blue Time.